capar di ma pace suona. Non c'è ritimma mai perché bocca cavasa non ne avvonna. Non so sti bocca in me. Pure te chiama non risponde, può fa dispietta a me. Tenimma c'è così, anima e cuore, non c'è la samma chi manca penora. Tu desideri e te ma fa paura, campa con te, sempre con te, per non morire. Che c'è, dici ma fa parole amare. Si ho bene può campare con un respiro, si smania pure tu per chi sta a morire. Tenimma c'è così, anima e cuore. Ma fa paura, campa con te, sempre con te, pa non morire. Che c'è, dici ma fa parole amare. Si ho bene può campare con un respiro, si smania pure tu per chi sta morendo.